I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Parlare di nuove tasse è sempre un azzardo, a maggior ragione quando si tratta di tasse sulla casa. Così ieri ha colto un po' tutti di sorpresa la proposta di un emendamento alla manovra avanzata da alcuni deputati del PD di modificare l'assetto della tassazione sulla casa. Diciamo subito che la proposta è tramontata nel giro di poche ore. Si trattava di istituire l'IMI, l'imposta municipale sugli immobili, in sostituzione dei due tributi, l'IMU e la TASI, che oggi pesano sul mattone. Un sistema anomalo, quello attuale, visto che a uno stesso bene immobile, alla stessa base imponibile, si applicano due imposte praticamente identiche. Come dicevamo, però, si è scelto il dietro fronte. Il motivo ufficiale è che, secondo alcune verifiche, l'emendamento rischiava, almeno in alcuni casi, di portare un lieve aumento delle tasse. Di certo, la notizia di una nuova imposta, che pure avrebbe dovuto accorparne due, aveva scatenato un fiume di polemiche e reazioni allarmate. È accaduto un po' quello che alcuni giorni prima era successo alla tassa sugli affitti brevi di camere tramite internet, Airbnb per intenderci. Tassa spuntata in un emendamento alla manovra è sopravvissuta solo 12 ore prima di essere archiviata proprio da Renzi. Mai e poi mai nuove tasse, aveva detto. Per l'IMI ieri il risultato è stato identico. Il tema però resta, perché qualcuno prima o poi dovrà spiegare ai contribuenti per quale motivo su uno stesso bene si devono pagare due tasse diverse, l'IMU e la TASI. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.